solo. Non mi vedo mai. E cos'è che stai facendo? Pensavo che fosse andato tu. A mia voluta, ma... Già, ci siamo sentiti comunque, dai. Ancora si dice trombelli. Ai, ai, ai. Vabbè, si dice ancora trombelli, che... La truppa. Aspetta, poco cade, dopo un pizzo, di tuo paraggio. Dopo un di brucia. Era perché mai? Stazionare a Trento. È stato un mese, è un po'. Non dovrebbe scaldare, cazzo, ci tanto, dai. Metti una pentolina sopra. Non tocchi di bruci. Ah? Non tocchi di bruci. Ma se riesci a mettere l'antenna attaccata fuori. Se no ti si brucia. Buonasera Luca, buonasera Gio Maria. Perfetto, Arturo, buonasera. Dove eri in giro oggi in bicicletta? No, stavo facendo? Ui, caspita. Poi mio, sino a poco fa, era contenere agli Anna. Non si può fare. Poi ho guardato anche il coso tuo, l'ho trovato solo in inglese, tutto in inglese, di tutti e due, tutto in inglese. Beh, è da ficca, beh. È strano però, non ci sia una ditta che non faccia queste cose. No, dai, io mi aspetto 5-10 minuti, arrivo tutto, vado d'accordo. Sì, io già siamo qua. Hai compreso Gio Maria? D'accordo, ci sentiamo. È strano che non ci sia uno che li faccia in italiano. Sono entrato dove ci sono tutti i manuali, sia da Cave to Ico, tutti quanti i manuali. Nulla da fare. Di quella marca lì nel coso non c'è, ci sono gli altri ma di quelli non ci sono, li ho trovati però sono in inglese, tutto in inglese. Questa roba fatta tutta in Francia, capito? Sì, ma siamo nella comunità europea, non è fatto di quello, la comunità europea dovrebbero dare per tutti gli stati di... anche l'italiano dovrebbero dare il coso, lo dovrebbero mettere in italiano. Ma non so, tutti li fanno, qualcuno glielo fa in Italia, ma raramente, cazzo. E tutti in inglese sono, Caspita, è tutto in inglese, cioè per il rigore è tutto in inglese. Sono fatto per il coso, per il Kenwood, è tutto. Tutte le marche ci sono, da iniziando dal Kenwood fino a Intec, tutte le marche all'infuori di quei due lì. Allora ho cercato un altro posto e li ho trovati in inglese. Ma però già si può fare in italiano o cosa? Perché le traduce in italiano il computer, bisogna saperlo fare magari. Ci ho provato a metterlo, a farlo cambiare, non me lo cambia, è partito così gli ho messo traduci e non me lo fa. Ci ho provato a mettere traduci. Aspetta, lasciami cercare, che lo cerco in un'altra cosa, ma si è commentato in una su Google, un altro sito. Aspetta 10 minuti che provo a vedere. Io è acceso qua, dai, sono in ascolto. Sì, già ti chiamo. Io è già acceso. Gian Maria. E chi è? Ehi, io sono. Me le dà sempre in inglese, me le dà. E quell'altro me lo dà in inglese e francese. Non da dove va, no, non me ne danno in italiano. E quell'altro sono riuscito a trovare il sistema, a togliere i bipi almeno, otto. Quello è già messo a posto, capito? E allora piano piano bisogna andare a coso, leggendo piano piano. Poi io ho messo il manuale, coso, ho messo a farlo cambiare, a tradurlo in italiano. No, non me lo cambiano, nulla da fare, non me ne cambia. Ho messo il traduttore, no, e non me lo faccio. Solo l'avrei fatto, cambiato in italiano e poi l'avrei stampato, ma non me ne cambia. Racconti, senti. Sì, no, è già così. Ciao Mari, buonasera a tutti. Quando è che me lo fai sentire questo apparecchietto? Ciao Marco, buonasera. Aspetta che c'è il telefono, un attimino, ma... Ho riprendito con Marco. Sì, ciao Marco. E allora, non mi dici che ti sei scendendo, no? No, no, anzi, stanotte purtroppo è successo che ho dimenticato di prendermi qualcosa per dormire e proprio non ho saltato la notte e ho dovuto dormire stamattina. Poi alle 2:30 del pomeriggio mi sono vestito, mi sono preparato tutto, sono andato da Lidl, ho preso una mini spesuccia, ho fatto, dai. Poi così ho mangiato qualcosa, presto, cioè relativamente presto, tipo alle 4:30, che vorrei cercare di rientrare negli orari normali, o quantomeno, insomma, non a pranzare alle 8 di sera. Quello lo fa mamma, ma è anormale, mi. E sta peggiorando, tra un po' c'è una pranzana alle 9 di, no, no, di notte, poi alle 10. riguardo al manuale, purtroppo quelli president spesso lo danno in inglese, per me non è un problema, non è un problema, certo magari qualche termine non lo capisci, ma... Non dovrebbero esserci problemi, dai. Ma anche tu te l'hai comprato? No, no, io no, però vanno, aspetta, ho un po' di spese io. No, gli stavo cercando il manuale, ma è sempre in inglese, ho provato anche a farlo cambiare dal computer, a tradurlo, a vedere. Ma che, non da va, non te lo traduce. Me ne sono accorto anch'io, sono andato a scaricare il manuale tanto per curiosità e vedo che era inglese, però è uno scandalo mica, un prodotto importato in Italia, venduto in Italia, lo diano con le istruzioni in inglese. Dovrebbero fare, tradurre, fare anche a livello di fotocopia, amico, in certi apparati, però tradotto in italiano, non va bene, no? Ma va bene, purtroppo è così. Oh, io li ho trovati, dei cosi, ne ho trovato, ecco, non la faccio, tutti, in inglese, quell'altro in inglese e francese, chi d'altro in inglese, insomma l'Unione Europea dovrebbero metterlo anche in italiano, perché se è esportato anche in Italia, dovrebbero metterlo in italiano anche, invece no, non da davva, tutto in inglese, io in inglese, un po' grumasseggeggio. Guarda, è più facile il francese, ha poca grammatica l'inglese, ha molti termini, come dire, molti termini no, per descrivere le cose, però ha poca grammatica, quello è che ti facilita il compito, invece il francese ha la grammatica come l'italiano, mamma mia. Solo che per ogni paese, allora, Grecia, che ne so, Cecoslovacchia, l'idea della Repubblica Ceca, lo dovrebbero fare in tutte le lingue, in ogni paese sarebbe un macello, capito? Ma è una cosa elementare, mi... vabbè. cioè per chi non sa l'inglese no, vabbè. Vabbè dai, piano piano già si mette in moto. Sono stanco, poi c'è mamma che mi fa avvelenare, le cose me le ripete 10.000 volte, è da ieri che mi sta mettendo in croce per pigliare questo giornale della TV della Nuova Sardegna, me l'avrà detto 10 volte tra ieri e oggi. So che ti esaspera, è pedante, pedante, alla fine ti fa saltare i nervi. Vabbè, capito, sì, insistente, quando vuole una cosa te lo ripete, pigliami il coso, mamma mia, mamma dei turchi. Uia, se è tornato a passare io, uia, e andavi, sino che c'è pazienza, vai avanti, sino che poi non ce l'hai più. Lo so, ma speriamo che sia una cosa normale, per ripetere, che non sia quella malattia brutta, Alzheimer. E lei mi ha detto a me, mi sa che ce l'hai tu l'Alzheimer, se mi ero dimenticato anche i soldi per comprare i giornali, stavo uscendo. Così mi ha detto, dice, mi sa che ce l'hai tu l'Alzheimer. E te lo dicono, così, purtroppo. Bisogna avere pazienza, tanto non ho già odio di pazienza, piano piano, finché poi non ce li ho avuti più, è andata a finire così, andava dai, voglia, andava. Io già, non è che sia molto brillante adesso, pensate, sono già rimbambito da giovane, figurati da vecchio, mamma mia. E poi io sarò solo da vecchio, che figli non ne voglio, gli altri parenti sono tutti chi in Inghilterra, chi, capito, non stavano pensando a me. E vabbè, pazienza, pazienza. E una giovane di figliura io che a Londra, pensa un poco. E mi telefoneggia ogni tanto, fa sapere come ti fai dei rugani. Ehi, ma vabbè, no, ma io già non ho né le condizioni economiche per farmi una famiglia, ci mancherebbe. Oh, poi ci sono quegli irresponsabili che senza arte né parte, senza un soldo in tasca, mettono al mondo figli e poi non sanno come camparseli. Io purtroppo non, niente, non faccio nemmeno, non corro nemmeno il rischio di avere figli. Già ci sono le protezioni, già lo sai. I figli sono una cosa molto impegnativa, sono una grossa responsabilità e sono impegnativi sia per l'educazione sia per tutto a livello di soldi, no? Li devi calzare, vestire, sfamare, devi fargli dare un'istruzione adeguata, insomma. E poi non è detto che non siano figli che te ne fanno passare la voglia, figli delinquenti, capito? Purtroppo i figli sono un'incognita, non si sa mai come crescono, che compagnie frequentano. Ah, dice, gli avrà giù tutti e due i gambi, una coiubata con due nipoti e l'altra è a Londra, quindi mi dice, fammi vedere il cane a vedere com'è. E che è drummido, penso un poco, nel mondo dei sogni. Ecco. Ehi, a Gio' Marie, stavamo parlando del manuale in inglese, che loro danno per scontato che tutti ormai sappiano l'inglese, capito? È un macello, è un macello, chi lo capisce l'inglese? Boh, una parola, No, non si riesce, no, boh. E poi non è che ci siano tassi, sono quattro tassi e basta, non. Però come fa? Solo a cambiare il colore dello display, capito? Solo quello. Poi tassi, sai come può essere che se lo premi breve fa una funzione, se lo premi, magari un secondo o due fa un'altra funzione, quelle sono le impostazioni. Ma esce bene il raggio, l'hai già provato? Ma come mi senti adesso a me? Io ti sento bene, quello è. Esatto, quello, questo qua è. Caspita, è la tua voce che sento sempre, almeno così mi sembra, e allora già va bene, esce anche meglio di quello piccolo che ho dato a Natalino. Va bene, vanno bene, sono apparecchi nuovi che sono usciti da poco questi qua, capito, sicché sono in fuoco adesso, capito? Però, ripeto, dovrebbero fare ragazzi, almeno in inglese, inglese e spagnolo. Chi non prendi, Marco? Ma piano piano riusciamo a capire, dai. Adesso faccio vedere a mia nipote che l'inglese qualche cosa le sa, vediamo un po'. Ah, una curiosità su quell'apparecchio, no? Allora, la Presidente agli apparati ha dato sempre nomi di presidenti americani che sono esistiti nella storia. Beh, questo Berry non esiste. Un presidente di nome Berry, ho controllato su Wikipedia, non è mai esistito. È esistito Harry con l'H, ma Berry mai. E quindi hanno cambiato, non lo so perché questo nome è Berry. Boh. Potevano chiamarlo Presidente Trump, e quello già non lo fanno mai, me, che è antipatico Trump. È Barry, non Berry, Barry è Barry. Barry, ma in inglese si pronuncia Berry. Barry si dice li Barry in sassareggio. Io ho studiato sociologia a Marco, forse per quello. Chi è che vuole entrare avanti? Costa poco comunque, 63 più 7 euro, 70 euro costa. Infatti, per il prezzo del costa, ragazzi, è bellino, è bello veramente pure. Vabbè, già mi sentite, va benissimo, dai. Va bene, va bene. Oh Luca, allora se tu lo compri da Media Globe di eBay ti costa di più, se tu lo compri da mediaglobe.it come negozio online ti costa 59 più la spedizione, ti costa meno perché su eBay loro devono pagare delle commissioni, quindi se qualcuno deve prendere il comune comprato da mediaglobe.it costa 59 più spedizione. Copiato? Sì, ma io ho il Mobicom che è bello. Che Mobicom è? MB40. Non è a nome c'è? Come no? Ma di che anno è? Quello è vecchio tipo, è da morto quello. Mi sembra che non siano omologati quelli lì, non fanno più bene, Luca. Non ce l'hanno la targhetta dietro con la scritta C. Ma infatti non ce l'ha, però c'è il coso che è omologato. Non vale, non vale più. Quelli lì non valgono più. Io ne ho tre, le ho messi accattassate alla parte, cosa vuoi fare? Oh, naturalmente se non avete problemi di TY usateli e basta, se no si rovina la lascia difesa. Capito? Vabbè, comunque in inglese sì, se figlia o nipote già lo saprà, e se è giovane lo sa l'inglese, tranquillo. Io già non ho problemi con l'inglese. Quel poco che ho imparato, bene o male si capisce. Anche Luca credo lo sappia, no? L'inglese, grosso modo. Se ti dicono push, press, F1 for dysfunction, cosa vuol dire? Premi F1 per questa funzione, per quella funzione, insomma. Non è un problema per quelli un po' più, non dico giovani, da, perché già sono stagionato anch'io, insomma. Sì, è qua, dai, non è difficile, vabbè, poi non è facile l'inglese, però che è facile, dai. Sì, infatti, riprendete, dai. Eh, eh, beh, difficile, non ho capito un tubo, nulla proprio, so che mi stai sentendo il salto, però bello diverso colore, questo è rosso il display, io volevo fare un po' azzurrino, però come faccio a farlo girare? Vuol dire che lo lascio così e ciao, se non riesco. Ho bisogno di telefonarmi di Agroba per un po' se mi danno qualche indicazione. No, meglio di no, che quelli si buriano ad essere spiegazioni in italiano. Allora, mi ha fatto una cosa che sono inglese, permetti, che è un vantaggio per loro, fa dai manuali in italiano, ho fatto copia, molto li costa farlo, ragazzi. Certo che bisognerebbe, come si fa tutto il testo, il PDF, anche se ce l'hai in PDF, no, un formato elettronico, dovresti selezionare tutto il testo e metterlo nel traduttore, però tutto il testo non te lo fa selezionare, ti fa selezionare solo qualche riga per volta, però anche col traduttore di Google già si arriva poi alla... Vabbè, comunque, ascolta, lo vuoi provare in FM? Proviamo. Come? Lo vuoi provare in FM? Sentire com'è. Ah, giù. Io pensavo che era andato a Cionga. No, io ya. Bisogna che non portiamo da romanzo una banda a Cionga io. Sono un nipote da accompagnare a scuola, quindi non vi posso andare. Peccato, eh. Avanti, Marco. Sì, c'è un giorno che non vado. Io andavo quando c'erano i nonni, nonno e nonna, quando ero piccolo. Ma poi quando hanno smesso loro di andare non sono più andato nemmeno io. Giocano macconi, lumacchine, bei tempi. Che poi adesso mi pare tutta stagioni, in certe stagioni è vietato perché c'è la riproduzione, vabbè, quello mi pare anche giusto. Un attimino, che sono al telefono. Luca è andato a mangiare la pasta al forno. Buona, beato lui. Poi si è fatta fresca al momento, è ancora più buona. Perché è confezionata, sai, certe volte un po' il conservante si sente. Che è quella comprata pronta, no? Poi dipende, vabbè, se è comprata fresca, cioè fatta dalle pastifici, ancora è buona. È come quella fatta in casa, dai. Ma se di quelle confezionate, surgelate, già conservante. Io non le mangio, né fatta in casa né comprata sul gelato, non mi va, a me la pasta al forno, prima la mangiavo, molti anni fa la mangiavo, però forse avevo mangiato troppo e dalla volta non ho più mangiato, non mangio, non ne mangio assolutamente, nulla, proprio pasta al forno non ne mangio. Tutta l'altra roba mangio, tranne che quello, ma non mi va. Loro la fanno qua ogni tanto, però mangio un'altra cosa. Io preferisco un piatto di spaghetti e apposto la pasta al forno. Ah, forse ne hai mangiata troppo prima. No, a me piacciono, caspita, la pasta al forno è buona, mi piace un sacco. Riprendi Luca. Luca, si è assentato, deve essere. Rientra dopo magari. Lui salta, è ballerino, è una cavalletta. Strano che l'abbiamo sentito a canna da pesca, è rientrato, è. Ah, Luca è rientrato, è. Eia, sta ancora trombando. O tinteggiando, eh? Aspetta un attimino che c'è mia nipote, vediamo un po'. Vabbè, beh. Lo sa tradurre? Marco, Tore. No, Gianmarì, era al telefono. Finito? Sì, ho finito. Ok. Mia nipote, era in fretta perché deve andare a Ghero e non ha potuto guardare bene, dai. Ma la troviamo un altro momento, dai. E vediamo un po'. Certo, l'altro riuscire a capire qualche cosa. Sì, piano piano. E cosa ho da mettere nella M sicuramente? C'è Birivì, adesso non c'è, confermi. Sì, no, non c'è, no. Hai visto? Una cosa va azzeccata. Cos'è più vedo? Meglio, dai, rompe, Birivì rompe. Ma poi quello lì proprio. C'è stato un altro, ma proprio liscio. Cosa va, sentire ma dopo così è. E allora? Lo senti anche tu, lo senti lì? Ne ha sette cose c'hai, cioè, sette tipi di biribiccia. Sciogare, non si capisce. Ne ha sette, sono belli, sono. Solo che quando arrivi a un certo punto devi avere il fastidio. No, meglio che non ce ne sia, va. Non le metto, va. Lascia tutto così e va bene, dai. In FM è più basso, così. In FM è più basso. Ma quale sta toccando quello che c'è vicino al quadro? È quello tutto colorato. Ho capito. E l'altro? L'altro l'ho provato in FM. Non lo so, no. Ma comunque già si capiva bene. Ehi, a Puglia. No, perché te lo dà un po' in lontananza, te lo dà. Ma certi tipi sono così, ce ne sono parecchi che in FM sono bassi. Ma già è abbastanza comprensibile. Là si sente bene, basta sollevare il volume. Uno. Infatti, basta sollevare il volume e lo senti più forte. Ok, vediamo un po', aspetta, Sore? Ehi, a Giammari. Adesso lo metti in FM, a vedere un po' l'altro. Giammari, siamo qua. Ma mi senti, qua che sono in AM. In AM, sì. Si tappava quello lì. Sì, in FM, sì. Era più forte di me. Aspetta, quanto arriva forte, ragazzi. La prima, quelli c'è la potenza, penso io. Che bava! Dormitosi! Ma la passa a fuori, mangiata te la hai lupi! Noi chiamandoci poco fa, Luca ha detto deve essere mangiato pasta al forno, perché a lui gli piace molto. No, attenzione, ma da Maria, ecco, non è rientrata, dai. La macchina non è rientrata. Ho capito, vai tu. Sì, aspetta. Luca, ma ti sei preparato nei baici? No, sono già pronto. Già preparato, sotto, no, andare. Sì, vado a casa, dai, che sono sotto il da riparare, ho capito, devo piacere il tempo. Sì, ok, già siamo qua. Ma io mi sono lasciato. Va benissimo, ok Luca. Che è la casa tua, mi spacchi timpani, devo abbassare. Io ho sentito un breco un po' altino. Avanti questo breco, do. Io non ti capisco, solo che c'è la propagazione che ci sta coprendo. Il radio sei buono, però se Santiago 9. Secondo come ti copre la propagazione, ti sta coprendo. Hai copiato? Ok, ora buonasera, ben sentito. Certo, lì la propagazione su cielo è molto forte. Ti puoi fare dire che sei a rotta di collo e confermi. Ma a me ma hai lasciato il micro? Aura, mi senti a me? Gian Maria sono. Molto riprendi, dai. Gian Maria ti sta dicendo che già ti sente lui. Ma magari non lo senti più in mezzo alla propagazione, non lo senti. Infatti è molta propagazione, c'è. Me lo copre addirittura, Così che è così, purtroppo. Avanti Luca, aspettate, certo. La roba stai piegando? Mi sono la mano, dai, la faccio qua, così, sì, quella riguardante, lo faccio io. vai bravo, da voi stirali pure, avanti so. Sì, è la Urania che in mezzo alla propagazione, non so, lui ci ascolta, però a volte sparisce da coprire la propagazione. Urania, ancora ci si. Ok. Ti ascolti Gio Maria adesso? Sì, già l'ho sentita, io già l'ho sentita, a momenti magari lo copro, capito? E deve essere andata via con la propagazione. Adesso è più libero. E infatti adesso non ci sono più. E forse hanno sentito lui e hanno cambiato canile. Niente. Avanti ora, com'è la sera lì, dai. Ok. È strano che non c'è dinamita ancora, voi avete un altro canale con dinamite. Saluta dalla parte mia, se lo senti. Capito ora? Saluta la dinamite, se lo senti. La radio è buona, se non c'è la propagazione è buonissima la radio. Però un momento si coprono, capito? Arrivi confusa la radio, capito? Però adesso che non c'è propagazione la radio è molto buona, dai. E segnate adesso i quasi 8 qualcosa, dai. Salvatore, Salvatore. Salvatore, salva tutti le nuove corruzzi. Ok, dai. Ci andava così, va bene, andiamo bene, tu sei in collina, noi siamo in basso. Gio Maria, ma te sei in basso, vero Gio Maria? E aspetta che c'è qualcuno ha fatto la battuta, avanti. E Luca era. Ah, Luca era. E noi era in corrigo. Anda. Ah, chi era? Luca del Monte o Luca il trombettiere? Ah, Luca del Monte. Che ancora non deve essere entrato. Può entrare, può drummillo, o non sono rientrati ancora. Cazzo, è da stamattina è rientrato. Inizio la sera ha pigliato del ciracca, ma si è drummillo e non si decide a finalmente a domani a manzana. Te l'ha giudito io. Anda. Ma chi c'è ancora non è entrato? Ma strano è. Sto dicendo, quello è in fase, ma non te lo dico tu, lascialo fare. Anda. Allora Uranio, tutto bene lì, sì, in montagna. Tu adesso, da d'ora in poi, c'hai sempre fresco lì, sei tranquillo, Speriamo che faccia caldo adesso, così che almeno ti abbronzi bene in quella zona, Ora, senz'altro c'è l'arietta bella fresca adesso e più tardi magari si sa troppo bene. Ok, e adesso da domani, Giovanni, ci prendiamo, ci cominciamo a prendere il caldo da 26 a 30 gradi che sta arrivando questo gallo. Aspetta il telefono, Lasciala rifare solo, lasciala rifare. Allora ci abbronziamo. Giovanni, io vi devo lasciare, devo andare a prendere la signora. Ci sentiamo dopo, se ci siete ancora. Dai. Va bene, è acceso qua, chiama quando arrivi. No, neanche io mi aspetto un attimino, dai, che devo fare cosa. Ora ci sentiamo più tardi eventualmente, dai. Saluta la dinamista se lo senti, ciao. No, Luca. Ah? Non intende te. Ah, adesso sta per il basso. No, come? Tu ti pari di Tore. Tore è andato a prendere la 50. Coso? Uranio. Con coso? Con dinamite. Senz'altro hanno cambiato canale. Io me l'ho assentato un attimino. Vedo che sono la marina, sono la rivista. Non si è sentito, non mi conosci. Ah, tu sei pigliato. Chi si è ancora cavato? Tu lo vedi. Va, è il ciracco. E vi vuoi la grua, sta Dio. Grazie, grazie. Per carità, Bebo. già ci sentiamo. E a Siberia, te la cerco qua, Zucca. Sei figlio di mio padre. Ora sto rubassendo ancora. Un corre di padre, mio padre. Che c'ha diarrea. Ah, io credo, ma il problema del bene. Oh, può anche darsi, è arrivato. Può anche darsi. Certo, il travaglio che fa, va bene, già sei traccato oggi. Ma lui ti fa che sta cacciato. Ecco, ma qua ha girato e ha travagliato un poco, che c'è un berio. E allora, già dai. Una sua vicina si rifà la campagna a tagliare. Prima di non finire un lavoro, Giovanni, perché asciuga e che interviene, e il piano è un casino. Lo so. Oh, mi sta tagliata lì. Poi ha piovuto, ma adesso la salerba che sta crescendo, non hai idea, un bel. Perché ha piovuto parecchio, sicché. Adesso basta fare la giornata bella, lascia cioè come sale, in un giorno sale parecchio. Scusa, qui si vivo, non è che siamo per pareggio, no? Cazzo, sei un bebè, un bambino, Io devo tagliare, papà, tu vedi un po' di tagliato, io non lavoro a po', però pure si chiama il tuo, la cosa non è tagliato, ma un bel, già sono cattrezzato, per cui a mano femminile è tutto motorizzato, capisci? Va, come sta a fare calcio, è chiaro che tra l'umidizzare un calcio va a crescere, capito? Perché può tagliare da chi da voi cade grossa, taglia più male, invece cade fresca, la taglia più bene e taglia subito il muro. Perché fa le prese uno solo lui, oppure la prese per tagliare? No, chi si fa dire, un 34, cazzo è poco tagliare. Un bel taglio, così che ha voglia. In mezzo a torrate, i rifatti. C'è qualcuno al 24. Ah, chi è? Aspetta. E qualcuno accordato, Tutti i canali di giorno hanno 24. Tanti canali di giorno, sembra la visita, E senti che c'è l'FM, come ti arriva fuori? Ma io sono tutto la testa, io. Ah, c'è. È bello dritto, Questo l'ho sentito l'FM, sicuramente. L'FM, allora. Ma l'intendo pure la M, io, capisco, che arriva fuori. Anch'io, non arrivo a forte, poi la non c'è. Esatto, ce l'hai l'FM? Sì. E tu non sapere che ci fossi in FM? Tuo? Oh, il tuo. Ma che scalda un bel. Oh, no. Oh, chi ti ha preso? Dai casi che sono. Questo lo scaldano. Oh, è ghiacciato. Conta da grande attesi. Ma tu non è stazionario? No, è stazionario non è. C'ho l'accordatore anche io, capito? Si chiede 1 e 3, dai. Io a 3. È un mezzo per quello che scalda. Ottore che ti ha fatto, Marco. Ottore è andato a prendere la cifuata. Marco, c'è stato, sarà frazzando. È andato a prendere 60. E lui frazza a quest'ora, purtroppo hanno preso l'abitudine così. E tutti i particolari sono loro, dai. Ciao, aspetta un attimino lui, che hanno suonato. Io ti vedo domani, dai, non sono proprio preparato. Sentiamo domani, ciao. Ok, ciao. Ciao Maria! Ciao Ballatore! Sì, sono rientrato. Lì, mi stava aspettando. Io sono qua, là. Ma chi non si è sentito? No, ma deve essere che ancora non è arrivato allora. Deve essere che non è arrivato. Ah, non è arrivato. Ma dove va questo? Ah, non lo so, non so se è rientrato da campagna. Stavo dicendo, ma cosa doveva arrivare? Dove va questo? Doveva arrivare oggi, dice. Non so se gli è arrivato. Allora le... della Barratti fa il natto e a paese di sì. Aspetta, vedi se vede. Ciao, signor Bacchisio. No, vede se non è entrato. Ehi, Uglia. Sono Bacco Vinci. Infatti, dovrebbe essere a casa già. Non so, ho indaffarato. Sicuramente sarà indaffarato. O è ancora pulendo la macchina. E può darsi pure. Aspetta, signor Bacchisio. Se vuoi entrare, già entra. Già entra, se vuoi entrare. Mi pare se entra da là, mi pare che entra più. Evidentemente c'è da fare là. Domani non sgridiamo quando entra. No, voglio vedere, le cose entra anche a quest'ora, entra. Speriamo che entra prima di oggi, almeno a salutarci. Fino a domani lo sgridiamo. Andemmo e andemmo. Ciao, si va da me, ma siamo con me, se lasciamo andare, e ad avere me stessi. Fatti ed è così. Ma, di cosa mangi, saluti, boh, ma che io cosa mangia, un attimo a cucala, Sì, se no un giro di banca, poi a fare il beagliata e arrivederci. Ma è regalato a un coso di ricotta fresca, no, ma l'ho regalato mio genero. Così che me l'ha portata e mi ci ho fatto io ricchiette, pasta e ricotta, oggi a pranzo mi sono fatto un piatto viene di mangiato. Buona. Sì, ma a me mi faccio che da manina mi faccio. Mi butto leggere il suo come qualche buccia. Spero che faccio da giudizio. Che va a trovare, non entra più. Buonasera, signor Bacchiglia, va, c'è la porta aperta. Signor Bacchi. Massa del radio, sì, mi devo alzare. No, Bacchiglio, si mette un paio di foglie di carta sotto i piedi e rimane più alto. Va più bene, adesso è più alta, va. Ehi, ya siamo qua, signor Bacchi. Ya siamo in oggi. Io che andemmo bene, andemmo. E a forti musini, to. A forti musini. Ai noi siamo da sempre bene. La cosa male, la siamo tutta la bassi. Infatti, siamo non bassi, ma... Allora, e poi le cose noi vanno sempre bene, qualche volta anche un po' male, e purtroppo bisogna anche capirle queste cose. Non tutto va dritta, qualche cosa c'è sempre distorta. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. E così è. La vita è così purtroppo. Gli alti e bassi. E andiamo avanti finché la barca va, quando va, cosa va? Non puoi fare niente. Infatti noi invece ci prendiamo, invece di andare in alto ci prendiamo il basso. Quello dico anch'io, Per carità. Siamo bovari, mezzo sordi, buh. Certo, la vecchiaia ci sta riprendendo. Sta così con meglio svecchiare. Infatti. No, pazienza. Andavi lì. Ah. dove è andato, signor Bacchisio? Cazzo! Ornegge di l'attrezzo e va. In asso di assado. C'è stato in asso. Già è asso, già. Quindi che aveva pigliato troppo freschi ivi. I sintesi. Come ci arrivi le voci le femme? Ci arrivi le voci di sastro mi da da gozo. Perché sarà gallo due? Aspera. Entra di burro in AM, entra di capito. Ma che le femme sono più forti, capito? E allora, ma ci sarà potuto sotto zitto. Oh, signor Bacchiso, entra così. Ah, va, si accende tutto quanto la strattatura. Non farà come c'è qualcuno che ti rimuove da voi di capapiso, no? Io se ne voglio dentro l'armadio a voi, e più pareggia e ne regava. Non lo so che io caccia. Signor Bacchi, la chiave hai preso dall'armadio. Non riviso. Ah, la chiave ce l'hai a aprire. No, oh, chiuso. Allora si è tranquillo, va. Va bene, signor Bacchi. Dici qualche cosa di bello oggi, dai. Oggi, dico solo di bello, che non c'è mezzo in campagna. Io ho sesso ieri mattina, anzi ieri sera. Ho dato un traguardaccia, è crescendo un bel del Madonna Bacchi. Allora mi tocca tornare a tagliarla. Ogni anno, tu la salve e torna. Tu mi pensa, non è vero, l'ho fatto fare con trattore. Era un po' di bella, tutto vero, è tutto vero, un capo sportivo vale. È crescendo un bel, cazzo. La sera la già mi basta, E vuol dire che va. Chissà chi sa che entra, dobbiamo lasciare la ristorata, no, ma la fa caccia, boh, e le ha taglio d'orra. Infatti, io sono tagliata, no, stasera ho cominciato a tagliare il viale, a passare la torra, perché è domenica sta, io a terra, uno passare il pianone, e via, un poco domani, un poco da mezzo, e ne ha taglio tutta. E a che tanto la si terra io, Cato la taglio, la si terra, a chi c'è tutto al sotto, ma chi? Da voi basso, un motto coltivatore, addirruata, e me ne mi indagoro. Pure ti sarà l'uva che ti sarà pure, la puoi dare pure la medicina, però non l'ha già fatto a chi ancora sempre perdeva, c'è ancora medicina nel cuore di terra, poi si chiama un po' di spazi di caggio, il pisoleggio, da poi con quella passata di medicina, capito? Ho mi sono fila, a chi ha in compagno per una volta era fatta come venuta musica. Beh, tu sono la pigliatoia, ti sono sarà. Ah, io seguo in asso, giungo. A me non mi tocca l'ebba. Ah, picco, Tore non ha fatto problemi, ma chi? Abbia da esso. Tore se non fosse un po' problemi, non bisogna andare a pigliarla, la prima pigliatoia della già. Da me passano dagli aerba, rudratori, c'è spugliatori, tutto bassano i nomi. Piano piano, no, senza fretta, no. Ehi, a voglia. Ma chissà cosa, arrivi da te. Esauriti, certo, però non te l'hanno spedito. No, non è lunga, stanno aspettando gli arrivi. Però lo potevano dire, no? Caspita, te lo potevano avvisare prima. No, ti ha scritto, non so più se ti ha scritto, fatica uno, ancora mi avevo disponibile. Deve essere che qualche uno sta pronto prima di me e si è affiliato. E io devo aiutare. Certo. Vabbè dai, un paio di giorni. Ti arrivano subito a loro. Va fanno la richiesta gli arrivano subito, quindi un paio di giorni e ti arriverà. Tanto bagato è pagato, quindi. Andava e anda, certo. È una fusciuna tu. Ma che mandarino un altro poco, un gatto che era ricostumato, visto? Ma lo sai, lo sai cosa è. Prendere subito e finire dopo. Beh, secondo pezzi, capita così. Infatti ogni tanto ne vedo lì a computer e questi sono esauriti o da quasi terminati, magari fate di presa l'altri e se così cazzo ti fate resettare. Sì, e che no, subito, subito. Eia. Cazzo di sì, si avvisa, mi sto. Sei il primo. Eia, avvisa subito, cazzo di desideri. A noi non si fate come si fate la Bacchisio, ci mette Bacchisio va rifatti laghi e per cui lo fanno aspettare, capito? Sì, ha pagato in anticipo, ha pagato, quindi devi aspettare, va un paio di giorni loro aspettano e poi io te lo mando. Come è fregato? Secondo me è fregato, ma secondo come si fa il pagamento non è fregato, Ah, se te l'ho scritto che non è disponibile, un paio di giorni lo se li hanno e te lo mandano. Aspettiamo. Ma sta a mettere sul coso, dove l'hai preso? Su eBay l'hai preso. Non me lo dà. Te lo deve dare per forza, te lo deve dare. Devi entrare nel coso e te lo deve dare per forza. Te lo deve dare. Se vuole il fatto, è un coso non registrato. Devi trovare, il numero, devi trovare, che non c'hai il coso segnato, un email non ce l'hai, no? Perché sull'email ricevi il coso della tracciabilità delle cose che hai comprato. Dovresti avere un email, e loro con quelle metti ti mandano la tracciabilità, il numero dell'affare che hai comprato, hai compreso? Infatti sul computer è più facile trovarlo, c'è il telefono, ecco cosa è. Deve si trovare la tracciabilità subito. C'è un blocco avanti. Buonasera, c'è Marina, tutto preoccupato, sì. È una camera, ecco. Troppo amplificato, sì, non riesco a capirti. Buonasera, signor Marino. va se du si, altro è troppo alto, vedi. Va se du. Poi signor Marino, buonasera. Infatti questa è più bella la radio, cioè se prima con ciò lecca lecca, ragazzi, Samarì, non leccare più. Ah, va bene, adesso va benissimo, va, almeno ti capiamo perfettamente. Ah, va bene, dai, adesso meno 3 minuti io me ne vado e che ho fame, per cui ne approfitto, Marì. Scusa, ma devo chiudere per forza, ho fame veramente. Stammi bene, saluto Riccardo, ci sentiremo alle prossime. Ciao signor Bacchisio, buonasera, ben sentito, saluto di casa e idem a Torre in famiglia. Ok, Torre, riprendi tu, io chiudo, vai. Ti ascolto per il finale, io chiudo, vai. Ciao. Sì, ok, ciao signor Marì, stammi bene, a domani, se tutto va bene. Anda bene. Se prende Bacchi. Io, ciao signor Marì, buona serata, saluto in casa e benvenuti domani se coincide. Anche io mi approfitto del microfono per passare il mio vestito. Ciao Toro, buonasera, saluto la signora, sentiamo domani. Ciao Marino, buonasera anche per te, saluto la tua familiare e sentiamo domani tutto consiglio. Ok, dopo il risultato, il sordo finale è consiglio. Anche il Marino. Ok, sono io, benissimo, ciao domani, buonasera, sono in casa. Sentiamo il prossimo, poi ciao Giacino, per il visto, sono in casa. Ok, ciao Bacchi, alla prossima, domani, ok, ciao, e prende Marì. Sì, solo che devi essere con omologato, nuovo devi essere, targato c'è, omologato c'è. Omologato c'è o c'è? E monogado c'è, devi darsi. Tutti si stanno attrezzando. Bisogna abbonare anche lo scaffale, senza microfono e senza antenna. È così. Senza microfono e senza antenna, a una base, blu, come così, e basta. No, pazienza, arrivederci. Fine mese forse. Domani gas, omi, intenderò gas da domani. Sì, dammi, da 14 a 26 gradi, siamo. No, da sabato sono 30 gradi, da sabato. Vabbè dai, io ti saluto, Marì. Mi sono già vendi, devo mettere a mangiare anche il cane. Ok, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Marì, ciao.